sarò adirato per sempre, dice il Signore. Solo riconosci la tua infedeltà. Ritorna Israele, non distoglierò da te la mia faccia. Ritorna Israele, non distoglierò da te la mia faccia. Eccoci, veniamo a te, sei tu il Signore. Sei per noi salvezza, di noi abbi pietà.